Sto coglione. Impano. Batten. Coglione cazzo. Bentornati, questo è Cortocircuito, Radio ZM. Heavy Metal, oggi cannonate, state pronti che arriva il delirio oggi. Tanto per cominciare, sono lieto di dare il benvenuto a Cortocircuito a Robby Wanke Robby. Un classico. Benvenuto Robby per la prima volta sul Cortocircuito, speriamo la prima ma non l'ultima. Vabbè, questo io dico subito e mi rivendico che questo programma Cortocircuito è stato pensato per avere uno speaker che non ero io, ma era Robby Wanke Robby. Addirittura mi avevano cucito il programma addosso, io neanche lo sapevo. Esattamente. È un bel vestito, non c'è che dire. Sembra di farmi bene. Vestito di programma. Sì. Esatto. Beh, innanzitutto abbiamo dato il benvenuto ai nostri ascoltatori, il benvenuto al nuovo resident Robby Wanke Robby. Cominciamo quindi a scaldarci. Ma li vedi da qualche parte gli ascoltatori? Di solito li spio in casa. Durante, io registro la puntata. In realtà questa è una puntata registrata. Poi vado in giro e sbircio da tutte le finestre di zona per vedere se sono ascoltatori. Per ora becco prevalentemente gente che guarda la Barbara d'Urso. Però almeno mi faccio una cultura, perché non ho la TV in casa, sai. Fai come Fantozzi con la partita, no? Giustamente. Esatto, è partita così. E intanto cominciamo a scaldare le chiappette, mentre noi passiamo, metti stalker basso, vai, tappiamo, sicuro che ce l'hai, dai, metti. Non so se ce l'ho stalker, però effettivamente parlavo di stalker. Ma porca vacca, sai che c'hai ragione, adesso ci penso. Sentiamo questa cronaca dell'iperspazio, sono sicuro che c'è nella vasta soundbank ZM. Secondo me DJ Set Franco. Allora vediamo un attimo. Stalker. C'era lì. Giura due. Ve le mandiamo tutte e due, cari ascoltatori. Ci facciamo il jug. Conti esatto. Li mandiamo a male. Robby, rutta tempo come io ho sempre sognato che facessi in radio. Sì, non so chi userà questo microfono dopo, poverino. Non ti preoccupare, verrà sanificato dallo staff preparato e formato sulle norme igieniche di Radio ZM. Ricordiamo che la puntata di oggi di Cortocircuito è offerta da Anitra VC. Vogliamo informarvi che nessuna Anitra è stata torturata o privato dei suoi diritti fondamentali durante nessuno spot di Anitra DC, tranne quello dove infilano la testa di un'anitra nel cerchio. Vabbè, che dice tutti ormai. Ma bando alle ciance, seppur ciance allegre. Oddio, che battute brutte che faccio ormai. Sono veramente perduto. Cominciamo a scaldarci. Io adesso, dopo aver messo play alla puntata preregistrata, esco da Zamme, mi faccio il giro di tutta la zona, quindi se volete affacciarvi alla finestra mi vedete aggrappata al corrimano mentre guardate la D'Urso. I don't know. pinga, linga tinga pinga. Finga finga. Ce l'hai Django il capo? Quanto ne vuoi? Swag! Hare Krishna incazzati. Continuiamo a pompare un po'. Oddio mio, che cazzo di voce ho? Continuiamo a pompare un po' di musica. Se qua sta venendo a prenderci. Sì, sta già arrivando l'ambulanza in lontananza a prenderci. Digli di portarne due perché la nostra pazzia è abbastanza grande. Continuiamo a pompare un po' di musicaccia arrogante. Preparatevi per le tre. Onesto, bro, io ne faccio pochi, ma quando li faccio hanno un senso molto, sì, molto politico-sociale, molto profondo. Dai, manda un'altra tercina di fondo. La traccia sta andando. Voi, mi raccomando, a casa fate stretching, perché come stavo per dire prima, mi servi per i rutti. Oggi sentirete diversi live di Robby One che Robby. Ve ne farò sentire tre. Il primo è colto. Cioè, sono proprio in ordine. Colto? È colto. È musica corta. Che è fatta giustamente da persone corte. Chiaramente. Vabbè. Niente, sarà proprio una storia. Un giro della storia dei miei live set. Sarà proprio l'evoluzione che ho fatto. Perché vi farò sentire il primo, e poi il secondo che ho fatto, e poi il terzo che ho fatto. E sperando di poter rispondere alla domanda che molta gente si fa, che si chiede se uno possa riuscire a fare un live intero su una macchinetta da sola, su una macchinetta che ha più di 10 anni. Questa è anche un'altra domanda, uno può chiedersi come cazzo fa. Qua oggi vediamo una risposta. Va bene, va bene. Questa è una risposta, è una puntata che può chiarire molto le idee a una persona che chiede ma che macchinetta devo prendere per fare il mio live set. Quindi vedremo anche magari che puoi portare in giro una sola, ma a casa devi avere quelle macchinette. Sì, esatto. Comunque io non posso consigliare sola. Sì, magari come prima macchinetta può anche starci, come macchinetta per divertirci, una SX può starci, però il discorso è che siamo anche nell'era d'oro, che c'è il cielo, delle macchinette di sintetizzatori, quindi ci sono alternative molto più moderne, a Deluge, appunto, però va proprio la prossima volta. Come sta andando col Deluge, tra l'altro, che io seguo sempre Robby, che ricordiamo, oltre a suonare con Chilling Gang, a produrre, si è specializzato tra machine, nei synth, in tutte le macchinette, nell'hardware, e ne conosce parecchie, e tuttora continua a curare, aggiungere video quasi quotidianamente al suo canale YouTube, che è appunto Robby One che Robby. Potete tra l'altro andare a cercare la vostra macchinetta che avete a casa sul suo canale, e magari riuscirete a scoprire qualche trick che ancora non siete riusciti a fare, magari anche cose che non sono scritte nel libretto di istruzioni. Libretto di istruzioni che è sempre bene leggere tutto, perché io rimpiango ancora da possessore di Yamaha RS7000 che non mi sono mai letto tutta il manuale di strumenti dell'RS7000, non sono mai anche riuscito a finire un granché di tracce perché mi mancavano un po' di elementi, però sono ancora là, non si sa mai che prima o poi ci dedichi tempo, ma io ormai continuo a dedicarmi alla costruzione di casse, quindi la mia vita è limitata e non riesco a fare tutte le cose, ma abbiamo, cioè, tu praticamente fai le casse più hardware di chi fa le casse, cioè qua tutta la gente che ci ascolta dice io faccio le mie casse a casa, ma tu fai le casse più hardware della hardware, faccio le casse più grosse e più pesanti delle loro, le vertebre lo sono. I tuoi cazzi sono pesantissimi. Ti ho visto più volte far tremare. Tra l'altro, piccolo aneddoto, una volta ad Arezzo, Roby, in un club di sudamericani che ballavano ballavano regolarmente il venerdì sera alla baciata nel posto dove suonavamo, che è stato affittato da una nostra tutta. Tra l'altro salutiamo Mir, Totama, tutti gli altri, gli STM crew. Insomma, quella piccolo spazio non proprio adatto alla riproduzione ad alti volumi di musica elettronica. Roby ha fatto crollare parte del controsoffitto. Un muro, ho spostato un muro. Sì, è vero, si è staccato nell'angolino dove suonava, si è staccato un muro di cartongesso per le vibrazioni. E lui che suonava a un certo punto il muro muove. Questo è colpa l'angolo di... staccarsi con nero dentro. È un merito di Roby e dei 6 Hog Scoop di STM, benedetti siano. Stiamo preparando, cazzate a parte, a farvi tremare la casa. Mi raccomando, collegate Radio ZM dal vostro cellulare o computer o qualsiasi device che stiate usando, collegatelo all'impianto bello di casa, collegatelo all'ampli di Marantz di vostro babbo e scoppiategli le casse. Saluto a tutti gli audiofili che ci stanno ascoltando. Sweat. Yeah. Travicci, se il tuo cesso è sporco, tappato, gorgoglia, fa rumori strani, simili a rigurgiti fognari, ani travicci, può aiutarti. Devi solo credere in ani travicci, acquistare ani travicci, assumere ani travicci. Gli effetti psicotropi inaspettati saranno potentissimi. Ani travicci, stura e pulisce i cessi, i lavandini, le docce, pulisce le fughe delle piastrelle. È ottimo come dentifricio e come prodotto per i piedi e per le orecchie. Diluito in acqua diventa un ottimo conduttore. Ottimo anche per la preparazione di alcuni risotti. Usa ani travicci responsabilmente. Che bello questo cocodrilo! Ti, che belle cose! questo è Cortocircuito. Questo è Radio ZM. State per ascoltare Robby Wankerobby. Live che ho fatto questa macchina. Un momento! Non ricordo questo live, era molto bello. Credo di non ricordarmi un cazzo della prima volta che l'ho sentito. Mi ricordo che ho preso la metropolitana. Metropolitana mi ha portato giù. Giù. Giù. Giù. Giù. Nell'underground. Thank you. roba bella, bella veramente. No, no, no, no, no, la fabbrica. We'll be right back. In realtà si conclude così la prima parte del live. Se ci sarebbe un po' di drum and bass che io o ci attaccavo dentro la blu o un'altra macchinetta, oppure me lo campionavo col chaos pad nel mentre. In realtà il chaos pad avevo già campionato dei pezzi durante il live. Mandavo quei pezzi lì, mandavo questo break e intanto caricavo l'altro minuto e mezzo della rossa. Quindi tipo ping pong tra uno e l'altro. Esattamente. È bello vederti in giro con rossa blu, quando ancora erano rosse e blu, ovviamente. Cortocircuito, il programma che parla di cucina. E quando si è in cucina sapete bene che avete bisogno di anitra WC. Què. Mentre adesso carichiamo il secondo live, che si chiama Osas. Osas. Chissà perché. Questo è fatto molto diversamente rispetto al primo. Questo io l'ho pensato per giocarci molto di più. Mentre il primo live era comunque sia, diciamo, una prova della macchina, cominciavo a conoscerla. E l'avevo progettato perché comunque si era un periodo in cui mi distavo parecchio le feste, quindi volevo un live che nel caso in cui non ce l'avessi fatto mi bastava fare avanti. Sarebbe suonato comunque decentemente. Quel live che ti porti perché... Oh cazzo, che effetto strano, raga. Quel live che ti porti perché in fondo saprai che prima o poi non sarai in condizione di suonare. Sono stati momenti in esatto, cui è capitato in quei 5 minuti. Guarda, erano proprio 5 minuti sbagliati per... Dimmi suona, capito? Esatto, ecco. Quanti dischi mi sei venuto e scegli in mente. E tu tra l'altro non ci andare. Comunque, comunque stavamo parlando quindi violini Stradivari fanno a Cremona, io so Cremona, credo sia il torrone buono, credo. No, è anche la ragione per cui faccio le song. Io faccio le song, a parte che per registrare la traccia in sé io la registro con la song, perché c'ho break quando la macchina passa. Cioè non ce n'è, non potrò mai essere preciso come la macchina una volta programmata. E in più c'è anche, come quella volta che ti ho raccontato che mi si è incastrato il tasto solo e sono rimasto da solo, no? Se io non avessi... No, no, no, me la ricordo benissimo questa. Mi ricordo che abbiamo anche fantasticato il fatto che il tasto solo fosse in realtà un modo per rimanere da solo, che lì si mettevano una bolla attorno, sparivano tutti gli altri. E anche il tasto mute era veramente pesante, mi ricordo. Esatto, se si blocca il mute è un casino che non riesco più a parlare, capito? Però invece il solo, rimango da solo. Però in realtà siccome mi è successa questa cosa, io avevo le song già pronte, sono riuscito a salvare con potenziale live mandando le song. Quindi sti cazzi, la gente che mi dice ti prepari le cose prima, fallo tu. Anch'io comunque da verso tempo, nelle poche volte che metto mano alla macchinetta, mi scrivo le cose come devono essere scritte, perché sono anche dell'idea, cioè, avendo visto tantissima gente che suona la live, prima di usare la macchinetta, io ho fatto un grado, ho iniziato col computer, con Fruity Cubase, e poi ho preso la macchinetta, la Yamaha è abbastanza una macchina... diciamo, perché è una parte synth, un campionatore, parlo della Yamaha RS7000 sempre, scusate, e... è una workstation, è una workstation la... diciamo che per gli anni in questa prodotta era molto molto avanti, ovvio che non può competere a un per esempio anche solo su base, Reason, effettivamente io prima o poi, se vorrò continuare a comporre che ho ultimamente, dovrò comprarmi altre macchinette o comprarmi spendendo un po' di meno. Sono due scuole di pensiero che fondamentalmente vengono più o meno sintetizzate nel giusto, per esempio come lavora Spume. Tra l'altro Spume, Trimone, dove cazzo sei? Vienici a trovare. Oh, Trimone! Esatto, Spume lavora con macchinette, o campiona magari dentro Ableton, e quindi si fa il suo live set con varie macchinette. Beh, ogni tanto suona anche ovviamente con il suo set di macchinette così, però in quei momenti, come per esempio diceva prima Roby, dove magari il set non sei proprio dritto per suonarlo, cazzo, è molto comodo invece, anche perché guardate che tutta la roba che sentite è stata scritta, quindi non sarà mai come sentire suonare uno la chitarra. Gli angoli della saggezza di Sushi, esatto. Momenti profondi da cortocircuito. Volevo dire qualcos'altro, ma sono dimenticato. Cazzo, che io faccio sti sproloqui dicendo minchiate assurde e la gente Ma sì, ma infatti tu dici che non sei buono per la radio, tu sei nato per la radio, parli, stream of consciousness, meglio perdermi che trovarmi. Storie di Sushi. I racconti di Sushi. Intanto sentiamo un po' di... It's electrofunk, baby. Basta. Non si sto cazzo di volume, no? And I jump with the Jam On production crew. So go crazy, go crazy. Don't let your body be lazy. I said don't stop the body rock till your eyesight starts to get hazy. Clean out your ears and you open your eye. If you wanna hear the music, just come alive. If you don't know how, get ready to learn. Cause Cosmo's taking his turn to burn. Take a seat and no in the seat. Then you add M-O and a freaking D. Add a funky beat and little what do you see? It's Cosmo D, yeah baby that's me. I've got the beat of that oh so sweet. Without me rocking it's incomplete. So rock this yo, rock that yo. Rock on and don't you dare stop. You rock this, rock that. Outer space, I can do rock the human race. I do it right. dare do it wrong. That's why the whole world is singing this song. Jam on it. I jam on it. I say jam on it. As day turns to night and night turns to day, whatever time it is, I wanna hear you say. Jam on it. I jam on it. I say jam on my mama, jam on it. Jam all around and upside down. I keep it jamming to the Jam On production sound. Jam on it. I jam on it. I said jam. Jam on it. I said jam on is the boogie beat that takes control, with the sure shot boogie that'll rock your soul. Jam on it. Jam on it. I said jam, jam on it. Get out of your seat and jam to the beat, and don't you dare stop your early morning. Jam on it. Get out, white. Gravici. Effettivamente sì, più vivo. Ma è bello perché ti fa sentire vivo, ti fa ripetere le cose soprattutto all'inizio. Senti qua. Good night. Ma stupido, quello che ti apre il cervello, se non ne hai provato Thank you. cazzo. Yeah. non c'è rete, non c'è, non c'è rete, non c'è rete. Ma una festa, no, Bruce? Festa. È vero, vero, vero, vero, vero, vero. Non prende. Cortocircuito. Well, Okay. Thank you. Bene, questo era il secondo live, un po' più live del live. Thank you. poi andiamo a mangiarci una cosa. La giornata. those sounds mean something? Cortocircuito. Un programma di approfondimento culturale, musica elettronica. Questo non li passerò. Passerotti elettronici. Le gallinelle acquatiche elettroniche nel Lambro a Milano Sud. Ma perché sto parlando con un cyborg? Cioè, non ho niente di mio da fare nella mia vita che metti una fare chiacchiere con un uomo. Un riverbero assurdo. Un pappagalli sotto. Come capire, senti? Hai problemi con i cyborg, che non so cos'è il tuo problema, sei un razzista, un sessista, un tecnicista. Per carità, no? Senti che chicca, senti che lobby. Avete la musica che associate voi ragazzi? Oh, guarda, mi sono fermato che finisce il tuo discorso, ma guarda, adesso sinceramente mi rendo conto che per tutti una manica di interrogare. Bravo! Indovinato. Soprattutto. Ma scusi signore, dai, io devo dire la verità, non faccio parte di questi ragazzi. Sono qui perché sono il loro capo, sono un carabiniere di Piacenza. Corri, corri, corri, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa, scappa. La pila della macchinetta, scusa, c'ho del feedback che non mi piace tanto, manda un po' il canale 2, zio, che devo capire. Ma del canale 2? In caso il canale, si sia intasato, probabilmente devi provare a versarci dello sgorgante. Puoi provare con Nani Travici, io l'ho provato e i risultati sono stati spettacolari. Cioè davvero, te lo raccomando tanto. Prova, prova. sei un po' sgorgato. Provo proprio più forte che il canale... qualcosa sta passando, lo sento. Sgorgato! Sei ingorgato il canale, Fry! Che sgorgo! Vediamo, amici! Prova più forte, vedi che secondo me parte. Partito. Eccolo qua! Bello! Fluido e... si sente tutto. Tutto. C'è bella la tua macchinetta, ma... c'è bella la tua musichetta, ma... c'è pure una bella maglietta, ma... in fondo io so che è tutto merito di Ani Trapicci. Circuito. Ani Trapicci. Swag. La bella canzone di una volta faceva sorridere la gente, che la trovava divertente e la cantava a voce alta. Invece la canzone d'oggigiorno la fanno utilizzando i macchinari, non te la vedi più ritorno con la tua cassa Rotterdam. La canta il commissario di Lufanete, che dopo un po' l'ha saputo il quartiere. E a mezzanotte e a mezzanotte e a mezzanotte e a mezzanotte e a mezzanotte e a mezzanotte e a mezzanotte e a mezzanotte e a mezzanotte casa Rotterdam. E a mezzanotte casa e a mezzanotte casa e a mezzanotte casa la mezzanotte casa Rotterdam. Tra la la la la. Se senti questa trasmissione, vuol dire che sei su cortocircuito e che hai il dono dell'udito. Beato te. direttamente da Circuit Gang su Radio ZM. C'è Corto Circuito. State ascoltando Robby One che Robby. T'ho detto capra. Voglio anch'io. Thank you. Mr. Bombastic. Mr. Boom. vai. Mister Bombastic, Mister Fantastic. Thank you. We'll be right back. liberate il fuoco! We'll be right back. through something here. You don't want to hear. They'll show you where it's done. But have no fear. State ascoltando Cortocircuito. Finish, dice Roby One che Roby. E niente, l'episodio è finito. Ragazzi, andate a casa. Ma che dico, no ragazzi, siamo ancora qua. Siamo ancora su Radio ZM, rincoglioniti come pochi dopo tre live set di Roby. Io c'ho il cervello frullato che mi cola dal naso e dalle orecchie. Non credo di aver mai suonato tre live set di fila in vita mia. Anche perché questi live set li avrei fatti in 4 anni probabilmente. Direi che ci siamo spesi abbastanza. Potremmo dire ciao a tutti e salutarvi adesso, in questo momento. Però, ciao ragazzi, no, non ci riesco, cioè veramente, se in questo momento non riesco a ruttare, potrei solo vomitare perché ho bevuto 2-3 Bavaria e sono abbastanza cotto. Però continuiamo a mettere della bellissima musica per farvi ballare, per farvi sballare. Well, I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Bossman, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. I need the dollars, dollars, dollars, that's what I need. Well, I need the dollars, dollars, dollars, that's what I need. Sentito più cazzo di colpo, ci avete presa male, dico beh, tutto buio, tutto zero, cioè così la serata è finita, ma non a caso, non ho capito, scusa. Cortocircuito. Cortocircuito, andiamo cane. È finito, cortocircuito, è arrivato al termine, vi abbiamo intrattenuto per almeno 3 ore e mezza, direi che abbiamo fatto la nostra, ora intrattenetevi da soli. E tu sappi che se ci stai ascoltando probabilmente sei da solo sulla faccia del pianeta. Esatto, probabilmente hai premuto il famoso tasto solo e non senti più niente, a parte musica di Ed Solo. Incredibile, come l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato. Devo dire che questa cosa è stata totalmente casuale. È da solo. Veramente, veramente. Adesso me la dabbo un attimino, come fanno i giovani. E niente, vi salutiamo. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Cortocircuito è la prossima settimana. Vi aggiorneremo per possibili continuazioni di Cortocircuito durante l'estate per intrattenere i vostri venerdì sera estivi. E me ne vado in ferie 2 settimane, quindi non che beh, io sono sempre qua a Milano, non vi preoccupate che di sicuro Cortocircuito io lo faccio, perché non avrò un cazzo da fare e un cazzo di soldi. Infatti l'ultima canzone che abbiamo sentito di Ed Solo non è solo di Ed Solo, ma si chiama anche I Need a Dollar. Io avrei bisogno di euro, ma va bene qualsiasi cosa, anche cibo in scatola. Date 1 euro a sushi o date del cibo in scatola a sushi a questo indirizzo? Sì, beh, cioè se non avete cibo in scatola, www.anitravc, clicca lavora con noi e poi scrivi che hai bisogno semplicemente di cibo in scatola, perché spendi tutto per AnitraVC. È quello che i latini chiamavano captatio benevolentia. Swag. Ho studiato, cazzo. Bene, dopo questa possiamo incominciare con il prossimo programma. che è Aria Aria, è un programma prevalentemente incentrato sul produrre scorregge con le ascelle e la mano sopra. Esatto, adesso purtroppo non ho lo stand del microfono, posso appoggiare il microfono e provare a fare tipo... Fantastico, mio cugino ci riusciva con le ginocchia, con l'incavo delle ginocchia. Mio cugino. Dopo questo ennesimo sproloquio senza senso, che vi priva anche del primo minuto dell'ore 23 di questo giorno, che non mi ricordo assolutamente qual è, vi saluto. Circuit Gang, vi auguro una buona serata, una buona continuazione su Radio ZM. E non vedete la mente senza autorizzazione. Non potete, cazzo.